chi c'è non riconoscere che il mondo gira e magari mi sto perdendo, evaporando su. Complice del mio disordine è un cielo immobile di nuvole che sta dimenticandosi di me. Non mi lasciare qui, domani pioverà lacrime e affanni affrontando gli inganni che non ho accettato mai. Non mi lasciare qui, domani pioverà lacrime e affanni affrontando gli inganni che non ho accettato mai. Semplice è tornare a credere che siamo lontani, ti prego rimani, ho bisogno di te. Sguardi si incrociano e rimangono su noi. Si sciolgono e guardandoci annegano, annegano tra lacrime e affanni affrontando gli inganni che non ho accettato mai. Che gira e magari mi sto perdendo fuori da qui. E il mondo che gira e magari mi sto perdendo fuori da qui.